Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, grazie per essere in nostra compagnia. Andrei subito ai temi del giorno, ma prima voglio ringraziare Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica e come sempre in redazione Laura Vanossi. Vista, dopo i 40 come cambia? Scopriamolo insieme. Se le tue gambe sono stanche e gonfie, siediti e ascolta i nostri consigli. Essere amici, questo è importante. C'è chi dice che la vita comincia a 40 anni, in effetti qualcosa cambia dopo gli anta. Noi tralasciamo il come e il quanto la vita ci ha cambiato per occuparci invece di come gli anni di vita hanno cambiato il nostro modo di vedere la vita. Infatti oggi parliamo di vista. Dopo i 40 anni qualcosa cambia, molte persone sono costrette ad esempio a utilizzare gli occhiali per leggere il giornale, ma non solo. Dalla 40esima primavera in poi i nostri occhi, ce ne rendiamo conto, sono più esposti all'insorgenza di alcuni disturbi che però non sempre si manifestano in modo chiaro, anzi il più delle volte si insinuano subdolamente, silenziosamente, giorno dopo giorno danneggiano o peggiorano la nostra vista. Per questo è importante stare allerta, come si dice, fare i controlli e farli anche in assenza di sintomi, e questo ci permette di essere pronti a cogliere la malattia nel suo stadio iniziale. Io direi, se voi siete, di iniziare subito. Innanzitutto vi ricordo il nostro numero verde 824 0024. I nostri messaggi, i vostri messaggi al 349 238 6666. Allora, se siete vicini agli anta o li avete compiuti anche da un po', non voglio sapere quanto, chiamateci, quindi noi saremo a disposizione. Ma prima di presentarvi il nostro ospite, sentiamo la nostra scheda che ha come sempre l'obiettivo di aiutarci un po' a focalizzare la nostra attenzione su piccoli ma importanti dettagli. Avvicina una pagina finanziaria del Sole 24 Ore con i tuoi soliti occhiali indosso e registra a che distanza minima riesci a leggere i valori di borsa. Se devi stare a più di 35 centimetri, sai che il tempo passa. Il buio ti pare particolarmente nero? In pratica fai più fatica rispetto al passato a vedere in assenza di luce? Noti che ultimamente i tuoi occhi si affaticano più del solito? Si arrossano o si sfocano quando lavori molto da vicino? Fai un punto nero in mezzo al quadrato delle parole crociate o del sudoku e guardalo fisso da vicino per mezzo minuto, un occhio per volta. Se la griglia è deformata, devi farti controllare. Allora, adesso abbiamo qualche elemento in più e possiamo quindi approfittare del nostro ospite che ci ha raggiunto in studio, il dottor Antonio Scialdone. Benvenuto, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Responsabile dell'unità operativa oculistica prima, il Fate Bene Fratelli di Milano. Dottor Scialdone, invecchiano anche i nostri occhi. Ci sono malattie che sono proprio tipiche dell'età, penso alla cataratta o anche alla degenerazione maculare, che ha quell'aggettivo che della dice lunga, senile, no? Non esistono più i senili. Bene. Ci sono, adesso siamo tutti legati all'età in qualche modo, no? Ormai abbiamo i settantenni che sembrano dei cinquantenni di una volta, quindi è un aggettivo cancellato dal vocabolario. E lo traduciamo con degenerazione maculare legato all'età. Allora, dottore, io vorrei che lei ci aiutasse a dare una risposta a tutti i dubbi che riguardano il nostro modo di vedere. A volte noi avvertiamo dei piccoli disturbi che non riferiamo al medico perché non abbiamo voglia di andare, perché li riteniamo di poca importanza, magari sono poco fastidiosi o perché vanno e vengono. E allora, prendendo proprio spunto dalla nostra scheda che abbiamo preparato con il suo aiuto, con il suo occhio clinico, allora vediamo quali sono i disturbi che non vanno sottovalutati, i segnali che non dobbiamo dimenticare, dobbiamo appuntarci e almeno parlarne con il medico? Parlando del varco, diciamo, dei 40-45 a seconda delle persone, vorrei innanzitutto magari brevemente chiarire cosa succede, perché non riusciamo più a mettere a fuoco bene per vicino, perché soprattutto il cristallino, che è la lente principale all'interno dell'occhio, con gli anni si ingrossa leggermente e perde un pochino di elasticità e si sposta di una frazione di millimetro verso l'avanti. Questo impedisce ai muscoli all'interno dell'occhio, che invece funzionano bene lo stesso, di poter sfruttare l'elasticità giovanile e quindi mettere a fuoco per vicino. Diciamo, questo è il fenomeno fisiologico che avviene, è quello che ci impedisce poi lentamente, pian piano, di leggere sempre per vicino. L'altra cosa che si riduce, questo invece, anche questo è effetto dell'età, è la capacità lentamente di percepire le sfumature dei bianchi e neri, dei grigi. Vediamo più bianco e nero, ecco perché la carta dei giornali non è più quella di una volta, adesso non stampano più come prima, e bisogna aumentare le luci. Sì. È quello che diceva prima la scheda, di durante la notte il nero sembra più nero di prima. Esatto. Dottore, quindi è fisiologico che il nostro occhio invecchi, e ci sono poi anche delle malattie di cui parleremo, la degenerazione maculare legata all'età, c'è un'età un pochino più a rischio in cui questa malattia si insinua. In generale sì, a partire più o meno dai 60 in su, sicuramente è una cosa molto in aumento oggi, purtroppo sì. Allora, intanto c'è subito Giuliano che ci scrive: da un anno sono diventato presbite, direi prima lentamente, poi nel giro di un mese sono peggiorato, mi sforzo a non usare gli occhiali. Potete dirmi se la ginnastica funziona? Immagino che si riferisca alla ginnastica oculare. Certo, la ginnastica altro non serve. Beh, non è detto. Non è detto. Serve a mantenersi giovani. Diciamo che la ginnastica sicuramente fa bene, nel senso che all'inizio della presbiopia sforzarsi un po' non fa male, anzi serve a prolungare quella fase di passaggio di elasticità che ci mantiene ancora un pochino in allenamento e ritarda l'uso degli occhiali. Certo, non bisogna esagerare, perché quando proprio non ce la faccio più mi devo aiutare con questa stampella che sono gli occhiali per vicino. Fra l'altro esiste, vorrei fare un commento brevissimo sulla ginnastica, sul metodo Bates. Sì, grazie. Che è un metodo ormai centenario, inventato da un americano diverse decine di anni or sono, che consiste in una serie di esercizi da fare per lontano e per vicino per mantenere questa elasticità. Lui ha cercato di dargli una veste scientifica, ma... ce l'ha o no? Diciamo che funziona abbastanza da poter... Cioè, lui... diciamo che voleva evitare l'invecchiamento, ma questo non è possibile. Diciamo che facendolo in modo sistematico, la ginnastica invece che a caso, un po' come in una palestra, questa facoltà di leggere per vicino può mantenersi abbastanza bene. Non ci sono miracoli, ma vale la pena. Sconsiglierei però di entrare dentro, come dire, corsi appositi che troviamo numerosi su internet, perché c'è anche gente che se ne approfitta. Certo. Però concettualmente è una cosa che ha un suo senso. Ci scrive Tina: quando guardo il display del telefonino mi si abbaglia la vista come per il flash di una macchina fotografica. Come mai? Primo, perché la chiamo il fidanzato, forse. No, sarebbe scherzo. Bello. Si abbaglia nel senso che probabilmente è nella condizione di cominciare, non so l'età di Tina, non ce l'ha scritto, ma suppongo che siamo negli anta di cui stiamo parlando, perché... Invece Diego ci scrive la sua età, ci scrive che ha 45 anni, ci dice che è miope e da un anno circa deve levare gli occhiali per leggere. Un consiglio è un accenno alle lenti progressive. L'accenno alle lenti progressive lo farei tra poco. Certo. Intanto voi continuate a chiamarci 824 0024, ma per il dottor Scialdoni, il miope invecchiando un po' ci guadagna o no? Il miope, è soprattutto il miope medio basso, è una persona che ha il massimo vantaggio, perché togliendosi gli occhiali compensa la presbiopia dal punto di vista ottico. Sì. Molti miopi leggeri pensano e riferiscono ma io, siccome mi tolgo gli occhiali e non leggo, io non sono presbite, anche se ho la tua stessa età. Magari non sono umani come gli altri, devono levarsi gli occhiali per leggere, e questo è il segno che hanno la presbiopia. 20 anni non facevano così. Allora, di presbiopia parleremo, per vedere se ci sono delle novità. Parleremo naturalmente delle lenti progressive, come ci ha chiesto Diego, perché sennò uno ha forza di mettere quanti paio di occhiali deve avere? Almeno tre. Diventa un po' difficile da gestire, ma è molto semplice invece intervenire in trasmissione. L'824 0024 è a vostra disposizione, così come il numero a cui potete inviare i vostri SMS: 349 238 6666. Una mela al giorno. Qualche giorno fa, la settimana scorsa per l'esattezza, abbiamo dedicato una puntata intera ai disturbi, agli acciacchi del lavoro e che proviamo magari sul lavoro. Molti di voi sono intervenuti in trasmissione, alcuni per il tempo è tiranno, non hanno potuto intervenire e molti ci hanno scritto perché giustamente volevano raccontarci un po' il loro disturbo. Tra i tanti abbiamo selezionato Simona. Ciao, sono Simona, ho 37 anni e di professione faccio la barista. Io ho un problema con le gambe perché stando in piedi tutto il giorno arrivo la sera che sono stanchissime e poi mi si gonfiano. Io vorrei sapere se come rimedio potrei usare delle calze contenitive per risolvere questo problema. Grazie. In linea con noi la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALTA, Associazione Lotta alla Trombosi. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Ah, buongiorno a voi e grazie. Devo dire che la richiesta della nostra amica Simone è una richiesta comune. Ci sono arrivati anche tanti messaggi e sono soprattutto le donne a chiedere informazioni perché accusano questo disturbo. Dottoressa. Ma è un disturbo che è legato a un problema di insufficienza venosa, probabilmente, del circolo venoso delle gambe. Che poi tradotto che cosa vuol dire? Vuol dire che le vene sono dei vasi che riportano il sangue dalla periferia verso il cuore perché vada a ripulirsi e poi ritorni in circolo attraverso le arterie ripulito e ossigenato. Purtroppo le vene sono elastiche ma non tanto elastiche e quindi col tempo tendono a perdere la loro elasticità. In più il ritorno verso il cuore va contro la gravità perché se noi pensiamo a quando stiamo in piedi abbiamo tutte le vene del piede, della gamba, del polpaccio che devono scaricare verso il cuore, quindi devono andare in salita in qualche maniera e perciò questa è la ragione per cui più facilmente le gambe risentono. Non è vero che soffrono soltanto le donne di insufficienza venosa o di gambe pesanti, anche gli uomini ne soffrono, però lo sentono meno. Lo sentono meno forse anche perché le donne sono un po' più predisposte a perdere l'elasticità delle vene per colpa, per esempio, della loro vita ormonale. Il fatto che prendono la pillola contraccettiva, per esempio, può peggiorare la circolazione nelle gambe. Il fatto che hanno le gravidanze e la gravidanza è un momento di grande problema perché l'addome si ingrossa e quindi in qualche maniera ostacola il ritorno del sangue verso il cuore. Le donne portano facilmente gli stivali e gli stivali se portati durante il giorno possono comprimere il circolo venoso e rendere più sofferente la gamba, far perdere elasticità alle vene con più facilità. Quindi ci sono molte situazioni. Quindi un po' di predisposizione e anche uno stile di vita. Che... Sì, lo stile di vita è molto importante e soprattutto è importante il lavoro che facciamo perché se noi passiamo tre quarti della nostra giornata in piedi, come succede alla signora, dietro a un bar, muovendosi sì ma muovendosi poco, ecco questo potrebbe creare questa colonna di sangue che deve tornare verso il cuore, questa impegna fortemente il circolo venoso. Quindi ci sono alcuni accorgimenti che si potrebbero utilizzare, per esempio soffrono di più le persone che hanno le vene varicose, che ce le hanno già oppure che le hanno in famiglia, perché questo potrebbe essere un indice di una fragilità delle vene. Noi ereditiamo dai nostri genitori anche la sostanza di cui siamo fatti, quindi non ereditiamo le vene varicose, ma certo la predisposizione a svilupparle. Le donne che hanno un addome abbastanza globoso, che sono un po' grosse, le donne che sono abituate a portare biancheria o indumenti un po' strettini. E questo, tutto quello che fa l'effetto elastico. Adesso poi c'è questo terribile uso del gambaletto, dico terribile solo dal punto di vista dell'idraulica delle gambe. Perché sì, anche esteticamente non è invitante. Non volevo esprimermi, questo non mi sarei permessa perché se sono nascosti sotto i pantaloni lo sappiamo solo noi, però certamente l'effetto elastico che il gambaletto fa sotto il ginocchio ed è lì da vedere perché basta che lo guardiamo quando ci spogliamo la sera, ecco tutti questi sono segni che non vanno bene, che dicono che stiamo mettendo sotto sforzo il nostro sistema venoso. Dottoressa, Simona chiedeva, metto le calze elastiche, faccio bene? Guardi, le calze elastiche oggi ce ne sono un'infinità e sono tutte mediamente, diciamo, sono buone, si può scegliere quella che si vuole, l'importante è che sia una calza elastica che abbia una compressione sufficiente. Le faccio un esempio, negli Stati Uniti si sono accorti che la probabilità di avere un rallentamento di circolazione nelle donne incinte era talmente alta, e in alcune donne questo si può tradurre addirittura nella formazione di un trombo, di una flebite nelle gambe, che la Food and Drug Administration, che è l'organo preposto esposto alla salute, diciamo, degli americani, ha fatto una dichiarazione molto importante chiedendo che i medici prescrivano a tutte le donne incinte le calze elastiche. Questo perché la calza elastica comprime il circolo venoso superficiale e costringe il sangue a passare in profondità e quindi ad accelerare la sua ricorsa di ritorno verso il cuore. E in più, costringendo, tenendo strette le vene superficiali, impedisce che queste si sfianchino, perché se il sangue invece di andare in profondità passa in superficie, trova una strada facile, certo, ma le vene perdono più facilmente l'elasticità e poi compaiono le varici, che sono sempre brutte non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista della prevenzione. Quindi bene alle calze elastiche, dottoressa, è sempre un piacere averla con noi, grazie. Grazie mille. Buona giornata. A presto, buona giornata. Pronto soccorso. Come cambia la vista dopo gli ANTA? In studio qua con me e quindi pronto a rispondere alle vostre domande all'800-24-0024 il dottor Antonio Scialdone, che è responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. Parlavamo di presbiopia. Dottor Scialdone, è un difetto refrattivo quindi? Possiamo chiamarlo un difetto refrattivo, certo. Non sì, è una malattia, è proprio no, il nostro occhio che si modifica, giusto? Che modifica, è la fisiologia. Allora, se è un difetto refrattivo, si può correggere come si corregge la miopia o i rischi sono superiori ai vantaggi? Io giro questa domanda al nostro ospite che è in linea, il professor Leonardo Mastro Pasqua. Buongiorno professore. Buongiorno. Direttore del Centro di Eccellenza di Oftalmologia all'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Professore, allora, la presbiopia non, insomma, male ai nostri occhi non fa, nel senso che magari ci complica un po' la vita quando, per chi ad esempio non è abituato a portare gli occhiali, deve cominciare a portarli per leggere il giornale. Ma si può correggere? Che cosa c'è di nuovo? Ma di nuovo dal punto di vista chirurgico sulla presbiopia c'è poco, perché in realtà la presbiopia chirurgicamente è ancora una metodica sperimentale. Sì. Oggi abbiamo la possibilità di poter provare a correggerla con il laser ad incineri, ma in realtà bisogna stigmatizzare che è assolutamente sperimentale. Si sta provando ad usare degli alti laser per cercare di consentire agli ultra quarantenni, agli ultra quarantacinquenni di poter avere una buona visione per vicino, ma ripeto e ribadisco che la tecnica è ancora sperimentale, quindi non abbiamo ancora una validazione clinica per cui possiamo dire che oggi possiamo correggere chirurgicamente la presbiopia. Quindi se ve lo propongono scappate. No, scappate no, però è sperimentale, quindi si sa che è una tecnica non ancora validata dal punto di vista clinico. Si sta andando avanti, oggi il futuro immediato è quello di un trattamento con un nuovo tipo di laser, che è il femtolaser, che è un laser velocissimo, e attraverso questo laser, con dei software particolari, con una chirurgia intrastromale, noi speriamo di poter passare dalla fase sperimentale alla fase clinica attuativa. Ma al momento, ripeto, è sperimentale. Ancora una tecnica sperimentale. Professore, io la ringrazio per la sua chiarezza, aspettiamo buone nuove. Intanto noi ci sentiamo, buon lavoro e buona giornata. Grazie anche a lei, dottoressa, buongiorno. Andiamo a leggere un messaggio che ci permette di parlare di lenti, ce lo manda Luca da Torino. Fortemente ipermetrope e astigmatico, 43 anni, ora comincia ad andare in crisi sul vicino, sul lontano e in più anche sulla mezza distanza, ci scrive Luca. Allora, avrei bisogno di un occhiale per ogni occasione, che fare? Dottor Scialdone. Dunque, Luca è in una posizione un po' particolare. In generale, quando la presbiopia non è più tollerabile, se ha bisogno dell'occhiale per lontano, chi già lo porta, più c'è bisogno di un occhiale per vicino, e chi usa molto il computer, ormai tutti quanti, che è una specie di mezza distanza, sì, un po' come era la musica una volta, sì, c'è anche l'occhiale da mezza distanza, quindi uno in testa, uno sul naso e l'altro appeso, esatto, con il cordino, esatto, per cui si fa il gioco dei... è un po' tanto, sì, per non dire di quando si perdono, si dimenticano, certo. C'è una soluzione che è l'occhiale progressivo, cioè un occhiale unico che io consiglio fortemente a chiunque lavori e che abbia una vita attiva, un occhiale unico che porto sul naso, me lo tolgo quando voglio, ma che mi dà tutte le distanze regolando la posizione un po' della testa, un po' dell'occhio. Non fa venire mal di testa agli inizi, almeno? Diciamo un che se di sono difficoltà ben fatto, fatti, la percentuale di insuccessi scende al di sotto del 20%. Ora il nostro amico Luca, se posso fare un commento specifico, dovrebbe, diciamo, controllare prendo con il suo ottico bene questa cosa, sì, di progressivo, perché se l'astigmatismo è molto forte, cioè se supera in generale, diciamo, il paio di diottrie, non sappiamo Luca quanto è astigmatico, con i progressivi non va, va tanto bene. Quindi, esatto, questo è un problema. Ecco, questo è importante sottolinearlo. Andrei a Roma, ci chiama Antonella. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prima dei mercati, Antonella, che ci racconta? Senta, io volevo sapere, siccome molto spesso uso gli occhiali perché sono presbite, e soffro molto di questa cosa perché mi dà un'insofferenza grande, non l'accetto bene. E vedo, io sto sempre con gli occhiali sul naso praticamente, perché sì, qualsiasi cosa faccio mi sembra che non vedo, però mi dicono che da lontano io vedo molto bene, cioè mi dicono che non ho problemi. Però quando io faccio, cioè quando porto gli occhiali per vedere le cose da vicino, a volte mi sembra anche di non vedere da lontano. Ho capito. Ora, io non so se è lo sforzo del fatto di dover poi continuamente questo levi e metti possa dare questi fastidi anche da, diciamo, da una distanza meno da vicino. Chiediamo al dottor Scialdone, potrebbe essere un togli metti, poi alla fine uno non sa da che parte è girato? No. Primo, potrebbe essere che gli occhiali che porta per vicino non sono adeguati alla distanza. Sì. Secondo, potrei dare un suggerimento ad Antonella: provi per a mettersi le lenti a contatto. Ci sono lenti a contatto bifocali e quindi progressive. Se uno le porta bene, tranne il nostro sole 24 ore piccolo piccolo, però si possono vedere tantissime cose. E adesso, pronti, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa un libro molto interessante, si intitola Gli occhi di Lucio, di Lucio Dalla e Marco Allemanno. Se volete ricevere a casa questo libro dovete essere molto veloci, mandare un'email, essere i primi, a esserebenessere@radio24.it. Il titolo è molto semplice, Gli occhi di Lucio, dovete aggiungere i vostri recapiti e il numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. E a proposito, Gli occhi di Lucio sono in linea con noi insieme alla sua voce. Ciao Lucio, benvenuto. No, insieme anche alle orecchie, al naso, a tutto quanto. A tutto quanto, ci sei. Sì, senti, sì. Senti Lucio, tra l'altro, nel tuo libro tu vieni raccontato visivamente dagli occhi di Marco. No, diciamo che gli occhi di Marco si mettono dietro alla macchina fotografica, siccome Marco Allemanno è da 4 anni che lavora con me, il produttore del mio disco ultimo, ed è anche un attore molto bravo, molto affermato, e viaggiando, facendo il mio tour, in pratica io non fotografo più da molto tempo perché mi sono anche un po' seccato. Io credo che la realtà sia più interessante e più curiosa da vedere ad occhi nudi che non attraverso il tubo della macchina fotografica, sia digitale che non. E allora tutti questi giri sono documentati in tante situazioni diverse, tra concerto tipico oppure anche, non so, Marco Allemanno fece un reading, una lettura l'anno scorso a Reggio di Parma dell'ultimo libro l'anno scorso della Alda Merini, sì, per cui è un grande momento. Tutta una serie di cose, più l'Irlanda quando io ho fatto la regia per Stravinsky del Pulcinella, c'è tutta una specie di percorso, e poi ci sono le cose che ho scritto io e che ha in qualche modo cercato tra cassetti, computer e quaderni Marco Allemanno. Devo dire, non ho nessun pudore di dire che è un libro veramente curioso, strano, bello. Sì, bello. E poi la cosa che mi fa piacere è che ho con la Bompiani, che è stata praticamente partner, se non addirittura quasi complice, abbiamo concordato anche un prezzo che è civile, certo, nel senso che con 20 euro c'hai il libro fotografico, i miei scritti, più il DVD e il CD, insomma è un bel affare. Senti, e poi è bello vedere, perché si vede, e sentire, leggere, conoscere Lucio più da vicino. Tra l'altro Lucio, noi ti vediamo sempre con gli occhiali, no? I tuoi occhialini, gli occhialini di Lucio Dalla sono gli occhialini. Guarda, è una storia un po' perché io all'inizio, quando ero ragazzo, mi vedevo bene con gli occhiali. Per cui ho portato gli occhiali anche senza averne bisogno. Veramente? Sì, naturalmente con delle lenti che non erano lenti, cioè solamente visibili. Finte. Ecco, poi piano piano probabilmente si è radicata in me la convinzione che l'uomo sta bene con gli occhiali, perlomeno l'uomo che fa le cose che faccio io. In effetti, Lucio Dalla sta bene con gli occhiali. Lucio, noi abbiamo qua in studio il dottor Scialdone, che è un oculista. Noi oggi parliamo nello specifico dei disturbi dopo gli ANTA. Quindi, se tu vuoi approfittare, come stanno facendo i nostri ascoltatori, per un dubbio che ti viene sulla tua vista, li portava anche quando non ne aveva bisogno, dottore Lucio Dalla. Adesso magari deve portare. Magari un progressivo. Lucio, che occhiali porti tu adesso? Adesso sono una serie di cose messe insieme, perché ho letto molto e adesso sto leggendo veramente molto, tra copioni, cose varie. Per cui porto gli occhiali da leggere e gli occhiali da vedere, naturalmente lontano. E ti trovi bene? E mi trovo bene, non ho grandi problemi. Mi piacerebbe avere un bel paio di occhiali blu, ma credo che non sia il caso di chiederlo al nostro medico. Perché no? Perché se sono un progressivo con una leggerissima tonalità anti-abbagliamento va bene. Infatti, questo mi piace, perché quando guido ho abbastanza paura del momento del cambio tra gli occhiali da sole e gli occhiali da vedere, soprattutto quando si guida in autostrada, ci sono gallerie, certo. Insomma. Allora Lucio, andiamo di blu. Andiamo di blu, bene. Un abbraccio a Lucio e anche a Marco Alemanno, salutacelo. Va bene, ve lo saluterò. Io intanto vi comincio a fare con grande gioia gli auguri di Natale, anche se sembra che sia lontano, ma qua col mondo che amiamo basta un colpo di martello e il giorno dopo ci troviamo nel futuro. È vero, sì. È vero. Allora iniziamo a farci gli auguri. Mi piace. I primi auguri di Natale ce li fa Lucio Dalla e noi li estendiamo naturalmente agli ascoltatori di Radio 24. Lucio, tanti baci, grazie. Arrivederci, auguri, ciao. Grazie. E noi andiamo da Anna Maria, che ci chiama dalla provincia di Perugia. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, Anna Maria? Sì, va bene. Vi ringrazio per la mia partecipazione. Allora, io sono un'artigiana e precisamente una ricamatrice. Una perla, non ce ne sono quasi più di ricamatrici. È vero. Ed è molto duro rivitalizzare quest'arte, perlomeno qui a Foligno, diciamo. Allora, io dicevo questo, chiedevo questo. Dunque, io lavoro, ho 72 anni, con gli occhiali e una lente di ingrandimento adatta proprio per le ricamatrici. Sì. Allora, volevo sapere, io ormai senza lente non posso fare niente. Volevo sapere se con il tempo viene a nuocere queste due cose, ma sì, non a nuocere gli occhiali e la lente di ingrandimento, sì, dottor Scialdone. Contemporaneamente. Ecco, Anna Maria è una ricamatrice, direi, quindi qualcosa, no, certo, di preziosissimo per un'arte che tra sta scomparendo. Non si sa che cosa è più importante. Ecco, ma può essere un problema, no, per potrebbe lei? Potrebbe, se usa dei sistemi ottici, diciamo così, presi un po' a caso. Se invece li ha, innanzitutto non so se abbia fatto una visita oculistica per determinare qual è, se non ha problemi agli occhi, perché se usa anche una lente di ingrandimento potrei pensare che, nonostante sia tanto, abbia per esempio una cataratta, sì, e allora una necessità di ingrandire di più di quello che serve. Se ciò non è, evidentemente può anche andar bene, ma esistono dei sistemi ottici fatti apposta, quindi invece che usare un sistema, come dire, un po' rudimentale, esatto, ci sono gli ottici, sono ottici specializzati nel fornire questi tipi di ingrandimenti adatti. Io ho un messaggio di Annalisa, uno dei tanti. Lei ha citato la ginnastica oculare, sì, no, di Bates, e lei scrive: Bates suggerisce esercizi per migliorare la vista guardando il sole, corretto? No, direi che è una follia. Il sole non si guarda mai ad occhio nudo. Non si deve assolutamente guardare. Molti ascoltatori ricorderanno i problemi che sono sorti una decina di anni fa in gente che andava a Mediugorie. C'era a fare il giri o visite a Mediugorie, guardava il sole e tornarono molte persone con danni irreversibili, quindi con ustioni alla retina. Quindi è una cosa che non va mai fatta. Io ho citato il metodo Bates per dire che il concetto di fare ginnastica è una cosa corretta. Possiamo però dare, e così rispondiamo anche a Norma e agli ascoltatori, Angelo, Ludovica, che vogliono capire dove possono rintracciare dei metodi, degli esercizi servizi suggeriti da Base? No, senza... in libreria. In libreria ci sono e si possono fare. Non serve essere accompagnati, tra virgolette. No, fare corsi speciali. No. Ok. Allora andiamo a Marco che ci chiama da Bergamo. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, una domanda. La questione è questa, io non vedo da vicino molto bene, ho bisogno di una correzione. Posso chiederle la sua età, Marco? Io ho 45 anni. 45. Proprio l'età che ci interessa, Marco. Ecco, l'età perfetto. Che mi interessa. È nato nel momento giusto per partecipare a questa puntata. Bene. Senta, la cosa che non mi spiego è che la necessità di ricorrere alle lenti è diversa a secondo delle giornate o addirittura a secondo degli orari del giorno. Quindi mi trovo la mattina prima e per leggere il giornale ho assolutamente bisogno di forcare gli occhiali, mentre la mattina successiva mi rendo conto di leggere tranquillamente. E poi invece episodi di continua necessità a ricorrere agli occhiali, addirittura con la sensazione che gli occhiali non siano sufficienti per leggere bene. Grazie. Grazie a lei, Marco. Dottor Scialdone, ecco, cosa succede a Marco? Marco si trova nel momento di passaggio tra una fase e un'altra della vita, cioè a seconda dello stato fisico, di come si trova la sua salute, il suo impegno, di quello che fa, della fatica che deve fare, gli occhi in certi momenti ce la fanno e in certi momenti non ce la fanno. Ecco perché questa incongruenza. Fra l'altro devo dire che in effetti quello della presbiopia, del passaggio, è un passaggio anche psicologico, se vogliamo, tra una fase giovanile di onnipotenza, posso fare tutto, quando non riesco più a leggere per vicino mi rendo conto, anche se sto benissimo in salute, che la mia vita ha delle limitazioni. Ecco, questo è un buon momento forse per sottoporsi ad un controllino. Di solito dall'oculista si va solo quando c'è un problema grave, no? Almeno da percepito da noi come tale. Il fatto che tutti bene o male diventiamo presbiti, invece questo potrebbe essere un momento delicato in cui fare controlli, di cui parleremo tra poco. Siamo ritornati insieme, continuiamo a parlare dei nostri occhi, della nostra vista. A volte dopo gli ante è necessario inforcare un paio di occhialini, molto spesso chi non è abituato come me se li dimentica, per cui c'è la ricerca dell'occhiale, si cerca di leggere anche quando non si riesce, quindi si sforza un po' la vista. Ma andiamo a sentire che cosa ci racconta Giorgia da Livorno. Buongiorno Giorgia. Buongiorno. Siamo pronti? Io ho 40 anni. Sì. Non ho problemi di vista, l'ultima visita l'ho fatta 2 settimane fa. Tuttavia ho dei grossi problemi quando guido la sera, la notte e vengo abbagliata, ho dei lunghi tempi di recupero della vista e a volte addirittura lacrimo o piango. Giorgia, sentiamo il dottor Scialdone. Intanto vorrei chiedere a Giorgia, che è fresca di visita, come è andata la sua visita, che cosa le hanno fatto, così riusciamo a parlare dei controlli, come va fatta una visita per bene, quali sono i controlli che ci fa il nostro oculista, la pressione oculare, il fondo oculare, eccetera. Voglio capire da Giorgia che cosa le ha fatto il suo oculista. Ma guardi, io per tutto il tempo ho fatto la visita con una macchina che credo si chiami ErgoVision, se ricordo bene, per cui cambiava sempre ciò che io dovevo leggere dentro, cambiavano i numeri, le lettere, quelle cose lì, quel tipo di visita. L'ha fatto, scusi, l'ha fatto sul lavoro la visita? Questa era per il lavoro, quella che ho fatto invece privatamente... Sì, mi misuravano anche la pressione, perché io ho molta paura di qualunque cosa mi si avvicini agli occhi. E quindi ricordo di aver avuto diverse apparecchiature differenti con l'altra. Invece con quanto, quanto è durata in media la sua visita, Giorgia? Scusi, Una mezz'oretta. Allora, prima Giorgia è stata molto gentile, rispondiamo subito al suo problema notturno. E poi diciamo che cosa si deve fare come controllo. Allora, diciamo le cose che più semplici che posso pensare per Giorgia, è vero che ha fatto delle visite, ma come sintomatologia sono: uno, ha un leggero difetto di vista che di notte diventa più evidente, e che o non le hanno trovato o non le hanno corretto, perché magari è molto basso. Oppure l'alternativa potrebbe essere un'inizialissima cataratta, ma qui vado a parlare di cose che per radio diventano difficili, eccetera. L'ErgoVision è un'apparecchiatura piuttosto rapida che viene utilizzata di frequente per fare le visite sul lavoro inerenti alla 626, che è abbastanza sensibile, ma non sempre abbastanza da trovare tutti i vari difetti. Quindi il fatto che l'ErgoVision non trovi difetti di vista non è necessariamente una... cioè le macchinette vanno bene, ma non sono poi garantite al 100%. Ci vuole la mano e la testa di un uomo, cioè del medico. L'altra cosa che approfitto di dire è: ha fatto bene a misurare la pressione dell'occhio, perché un difetto di vista non corretto al massimo mi dà un po' di disturbo, che poi prima o poi andrò a farmi vedere da qualcuno. Ma se non misuro la pressione dell'occhio intorno a quest'età qui, non sarà 40, sarà 45, rischio di non accorgermi, di non farmi diagnosticare di un possibile glaucoma, che è una malattia subdola, senza sintomi, ma molto, molto grave, perché mi ruba il nervo ottico, le fibre del nervo ottico, senza sintomatologie. Penso di vederci bene e intanto si creano, come dire, dei difetti. Chi è un parente con un glaucoma è particolarmente a rischio, ma anche chi non ce l'ha, essendo un difetto, come dire, di ricombinazione genetica, non necessariamente i miei parenti diretti devono averlo, potrebbero essere cinque generazioni fa, o chi lo sa, insomma. E quindi è importante pressione oculare dopo i 40, mettiamo i 40, i 45, più o meno, insomma, certo, però una controllatina almeno una volta per sapere se si è a rischio o no. Non è un esame invasivo, non ce ne accorgiamo, non fa male. No. No. Una visita media quanto deve durare per essere fatta bene? Diciamo che una visita oculistica, dice, ma diciamo che meno di un 25-30 minuti è difficile. Andiamo da un altro Giorgio. Giorgio. Questo Giorgio ci chiama da Vicenza. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a lei. Ci racconti. È un piacere sentirvi. Oh, ma Giorgio, anche noi siamo contenti a sentire lei. No, grazie. Ascolti, io porto gli occhiali da sempre, da giovane, perciò la settimana scorsa ho compiuto 60 anni, perciò sono ancora attivo. Io porto i progressivi, gli occhiali progressivi da parecchio tempo. Sì. Però non riesco a portare gli occhiali da sole, nel senso che non lo so, non ci riesco. Chiedevo al professore. È assimilabile la lente progressiva con, adesso mi sfugge il termine, quelle lenti che si oscurano da sole, come si chiama? Fotocromatiche, Giorgio. Volevo chiedere se era abbinabile il discorso. Sì. Anche perché io faccio la rappresentante, sono sempre in auto. Sei sempre in auto, certo. Dottor Scialdoni. Direi sicuramente fare un fotocromatico è una cosa molto utile, perché permette di abbinare, come diceva Giorgio, il progressivo al fatto di proteggersi gli occhi. Anzi, colgo l'occasione per dire che l'occhiale da sole è un presidio importante, ma non solo per gli anziani, anche per i giovani, per prevenire l'irradiazione di ultravioletti sul cristallino e sulla retina, quindi con aumento della probabilità di avere cataratta e problemi alla retina. Quindi portare, se è possibile, sempre gli occhiali da sole. Dottor Scialdone, io vorrei parlare con lei della terapia per la degenerazione maculare legata all'età. Sì. Ci sono stati negli ultimi anni dei cambiamenti importanti nella terapia di questa malattia. Vorrei però che lei rapidamente ci dicesse quali sono i segnali, perché anche qua bisogna arrivare ad una diagnosi. Ci sono dei segnali sospetti che andando poi dall'oculista possono aiutarmi a diagnosticare più precocemente la malattia? E così chiudiamo con due minuti di... Un segnale è stato messo a punto all'inizio della nostra trasmissione nel consiglio del Sudoku. Bravissimo. Nel consiglio del Sudoku. Allora vi rileggo rapidamente. Fai un punto nero in mezzo al quadrato delle parole crociate o del Sudoku e guardalo fisso da vicino per mezzo minuto, un occhio alla volta. Con l'occhiale per vicino. Certo. Se la griglia è deformata devi farti controllare. Esatto. Ok, quindi deformazione delle immagini. Deformazione delle immagini è il primo segnale in questo caso. Andare abbastanza presto, senza correre per carità, a farsi dare un'occhiatina al fondo dell'occhio, quindi dall'oculista e non dall'ottico, che può giustamente rimettere gli occhiali ma non è in grado di fare ciò che deve fare, cioè guardare, esaminare il fondo dell'occhio e dire sì, c'è qualcosa oppure no, non c'è, e se c'è entro poche settimane qualche cosa va fatto. Ora abbiamo questi farmaci ormai da un paio di anni che sono abbastanza efficaci nel ritardare o nel limitare i danni della maculopatia, che vengono fatti per iniezione, sono molto semplici, senza dolore, ma sono importanti. Arrivare tardi non è conveniente. Quindi anche perché soprattutto si può diagnosticare e si può utilizzare una terapia, esatto, che limita i danni. Dottor Scialdone, io intanto la ringrazio davvero per la sua chiarezza, per averci accompagnato in questa trasmissione, quindi ci prenderemo cura con maggior direi coscienza della nostra vista. Mi raccomando, i controlli anche quando i nostri occhi rispondono bene e ci fanno vedere bene. Dottor Scialdone, grazie. Grazie a voi. Prima di chiudere, io vi lascio con un brano tratto dal libro Il grano e la zizzania di Matteo Rampin, che sta avendo molto successo tra i nostri ascoltatori. È un brano che abbiamo selezionato che parla di amicizia. Allora, con questo vi saluto da amica, spero di essere la vostra amica, vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Passatevi una buona giornata e ascoltate. Il fraintendimento del concetto di amicizia è alla base di molte delusioni. Ci si aspetta tutto da qualcuno che non è legato a noi da vincoli di sangue. E spesso si scopre che nel momento del bisogno, o più spesso nel momento del successo, l'amico si dilegua. Si potrebbe reimpostare la questione riflettendo che chi non ha amici dovrebbe preoccuparsi prima di tutto di essere amico per qualcuno, ossia di comportarsi come desidererebbe che un amico si comportasse con lui. L'amicizia a senso unico non esiste, e anche quell'altra è molto rara. Quindi, nessuno ha te per amico? Infatti, non si hanno amici, si è amici.